sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta, potesse scatenar tempesta. Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, scatenar tempesta, potesse scatenar tempesta. Così Proserpina lieve vede piovere sull'erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera, forse la sua preghiera, forse la sua preghiera. Potesse scatenar tempesta, così Proserpina lieve vede piovere sull'erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera, forse la sua preghiera. Scatenare